Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. New York, 8 maggio 2007. Al Metropolitan Museum of Art tutto è pronto per la serata di beneficenza che si preannuncia l'evento dell'anno. Il Grand Gala inaugura una mostra che durerà per 3 mesi dal titolo The King of Fashion e Harold Coda, responsabile dell'Istituto del Costume e della Moda, ha curato tutto personalmente nei minimi particolari, dalle tovaglie all'illuminazione, dai fiori alla carta dei vini. Gli invitati, neanche a dirlo, sono glamour e di respiro internazionale. La stilista Alberta Ferretti siede accanto a Sandra Bullock, Claudia Schiffer e all'artista Marina Abramovic. Poco più in là siedono Andrea Casiraghi, Rampollo di Monaco, e la sua fidanzata storica, Tatiana Santo Domingo, che si intrattiene a lungo con Alexis Bryan, giornalista di Vanity Fair. Carolina Kurkova, Rosario Dawson e Jessica Simpson chiacchierano animatamente con Eva e Roberto Cavalli, mentre i camerieri passano silenziosi e offrono discretamente raffinate tartine appoggiate su un vassoio d'argento. L'obbligo per tutti è uno soltanto: indossare per l'occasione qualcosa che si ispiri al gusto di quell'uomo a cui la mostra vuole rendere omaggio. È il re della moda. Il suo nome è Paul Poiret. Paul Poiret. Era l'epoca del busto. Gli dichiarai guerra. È in nome della libertà che imposi la caduta del busto e l'adozione del reggiseno, che poi, grazie a me, ha fatto fortuna. La frase di Poiret risale all'inizio del Novecento e oggi può far sorridere per la sua ingenuità. Eppure nasconde qualcosa di molto profondo, e cioè che le rivoluzioni spesso passano dai costumi, ancora più spesso da quelli femminili. Le ragazze del 68 lanciavano i reggiseni, volevano sentirsi libere, senza vincoli imposti dalle convenzioni sociali. E allora non ha forse ancora più valore la lotta di un uomo solo contro secoli di anacronistiche costrizioni? È il 1879, l'anno in cui Paul Poiret viene alla luce, e nel mondo stanno succedendo diverse cose. Thomas Edison dimostra al pubblico per la prima volta la lampada a incandescenza. Luigi Capuana pubblica Giacinta, il primo romanzo verista italiano, e viene fatto il primo tentativo di realizzazione della televisione, utilizzando celle fotosensibili al selenio. Poiret ha alle spalle una famiglia povera, non sempre in tavola c'è qualcosa da mangiare. La sua casa, piccola, fredda d'inverno e calda d'estate, si trova a Les Halles, il quartiere dei mercati coperti di Parigi. Via vai continuo, trattative, animali. Nessuno saprebbe spiegarne l'atmosfera meglio di Émile Zola, che proprio qui ha ambientato il suo romanzo Il ventre di Parigi. Lungo il viale deserto, nel profondo silenzio della notte, i carri degli ortolani, diretti verso Parigi, percuotevano con l'eco dei loro monotoni scossoni, a destra e a sinistra, le facciate delle case immerse nel sonno, dietro i filari confusi degli olmi. Un carro di cavoli e un altro di piselli si erano riuniti sul ponte di Neuilly ad 8 carri di rape e di carote, calati da Nanterre. Ed i cavalli procedevano a testa bassa, con andatura pigra e uguale, rallentata dalla fatica della salita. Su in alto, sdraiati bocconi sul carico dei legumi, sonnecchiavano i carrettieri coi loro mantelli a righe nere e grigie, le redini arrotolate ai polsi. Mon Paris, est-ce ceci ou cela, autre chose ou bien quoi, je ne sais pas. Pourquoi suis tellement ému en passant dans une rue de Paris. J'ai trouvé sur les quais en planant un vieux livre jauni par le temps. J'y ai lu les souffrances et les joies que tu as connues tout à la fois. Il padre di Paul Poiret fa il commerciante di stoffe. Gli affari non sempre vanno bene, capitano spesso giornate intere in cui non si combina nulla, ma Paul è felice quando può andare con lui. Non tanto per aiutarlo a vendere, quanto per la possibilità di tenere in mano i tessuti, sfiorarli, giocarci. È un piacere sottile che ha fin da bambino e che non perderà mai per tutto il resto della sua vita. Per cercare di garantirgli un futuro migliore di quello che hanno avuto loro, i genitori di Poiret gli insegnano l'arte di costruzione degli ombrelli. Un'attività necessaria e sempre richiesta, perché si tratta di accessori molto in voga. In Francia il parapioggia era già diventato un oggetto di uso comune dalla fine del Settecento, e nell'Ottocento, fino ai primi anni del Novecento, lo si usa anche per ripararsi dal sole. Sono molti i dipinti dell'epoca che ritraggono donne e ragazze con il loro ombrellino, un vezzo che esalta l'eleganza dell'abito. Mi sono sempre piaciuti gli ombrelli, perché vestono molto di più di una borsa. Con il sole o con la pioggia li si può portare praticamente sempre, e danno al sarto la possibilità di sbizzarrirsi, se non con la forma, almeno con i materiali e le fantasie. Un giorno, proprio mentre sta cercando di costruire uno dei suoi primi ombrelli, eseguendo tutta la lavorazione a mano, il giovane Paul Poiret ha il suo primo guizzo di creatività. Con addosso un grembiule e davanti a lui tutta l'attrezzatura del mestiere, fa per prendere dal tavolo l'ultimo pezzo di legno, quando scorge, abbandonata in un angolo, la stoffa avanzata. E così molla l'ombrello, anche se gli manca poco per finirlo, e incomincia a tagliare la stoffa. In un paio d'ore ha pronto per sua sorella il vestito da bambola più bello che abbia mai avuto. Un episodio isolato, ma che sempre di più lo convince che la sua strada non può essere solo e soltanto quella degli ombrelli. E così la sera, nella sua stanza senza luce per non svegliare nessuno, disegna i suoi primi bozzetti. Quando li mostra a suo padre, l'uomo si complimenta e poi, con una pacca sulla spalla tipica di chi già conosce la vita, lo disillude dal suo sogno. Inutile provare a fare il grande sarto di moda, c'è la fame e dovrà accontentarsi di fare l'artigiano. Ma Paul è troppo intraprendente per lasciarsi scoraggiare. Va a bussare alla porta di Madeleine Cherui, un importante stilista, e lei gli compra, senza pensarci troppo, una dozzina di disegni. Ero così eccitato. Già soltanto entrare nell'atelier di Madeleine Cherui per me è stata una soddisfazione. Poi il fatto che le siano piaciuti i miei modelli. Con quei primi soldi guadagnati, che naturalmente erano pochissimi, mi sono comprato un paio di scarpe, belle, come le avevo sempre immaginate. Paul Poiret, forte del suo successo iniziale, disegna in modo sempre più continuo e prolifico. Dalla sua matita escono cappelli, cappotti, abiti totalmente non convenzionali che in molti, quando li vedono, liquidano come provocatori. Non tutti però. Ci sono stilisti pronti a scommettere sui più giovani che vogliono dare al nuovo la possibilità di avanzare. E così Poiret, dopo aver venduto ancora qualche bozzetto qua e là, approda nel 1896, a soli 17 anni, da Jacques Doucet. Sarto, mecenate ed estimatore d'arte, Doucet trasmette al suo pupillo tutta la sua esperienza professionale e umana. L'atelier è frequentato dalle signore più ricche di Parigi e l'atmosfera elegante e raffinata rende Poiret sensibile al gusto. È giovane, ma si appassiona al collezionismo, sfogliando le riviste che il suo maestro lascia di proposito sui tavolini del negozio. La celebre attrice Sarah Bernhardt è un habitué, e così la sua collega Gabrielle Rejean. Intrattenendosi a chiacchierare, Paul scopre la maestosità del teatro e spesso, grazie a loro, ha la possibilità di andarci. Ogni volta rimane ammaliato di fronte alle scenografie e ai costumi. Nei pochi mesi trascorsi da Doucet, Poiret forgia la personalità che porterà sempre con sé, una personalità moderna e originale. Da Doucet stavo benissimo. Ogni giorno venivano attrici, cantanti, il meglio di Parigi. Non mi sembrava vero che fossero loro a chiedere a me cosa indossare, ma mi accorgevo che sempre di più si fidavano dei miei consigli. 1901. Incomincia un nuovo secolo e Poiret cambia atelier. A volerlo è il grande Jean-Philippe Worth, figlio di quel Charles Frederick Worth che aveva fondato l'omonima casa di moda, la House of Worth, appunto, che sarebbe stata assorbita da Casa Paquin per poi chiudere i battenti a metà degli anni 50. Quando Paul Poiret mette piede per la prima volta nella Maison, si aspetta un ambiente aperto e all'avanguardia, dal momento che qui già si propongono alle clienti abiti ready-made. L'idea precorre largamente i tempi, perché anticipa il concetto di prêt-à-porter che si sarebbe sviluppato decenni dopo. In questo modo le signore non devono continuare a farsi prendere le misure per avere un vestito perfetto. Si basano su un modello già esistente e scelgono il tessuto con cui farselo fare. Inoltre, al posto dei soliti manichini, ci sono le modelle in carne ed ossa. Quindi si può affermare che Worth sia il padre delle passerelle. Date le premesse, l'eccitazione è tanta per il giovane Poiret che non vede l'ora di lanciarsi nelle sue più azzardate sperimentazioni. Certo di trovare l'appoggio di Jean-Philippe, realizza vari prototipi di tailleur dal taglio sportivo, decisamente moderni, e un modello a forma di kimono orientale a cui dà il nome di Confucius. Entusiasta, si presenta con il primo Confucius realizzato nell'ufficio di Worth e si aspetta grandi complimenti. Invece il maestro sbotta di colpo. Il mantello è così stravagante da essere troppo perfino per lui. I toni si alzano, volano parole pesanti. Poiret non ha la minima intenzione di accettare le condizioni che gli vengono richieste. E così se ne va. Et quand je parle d'amour, c'est tout nu dans la cour. On se réunit avec les amis tous les vendredis pour faire des snobismes partout. Il y a du coca, on déteste ça, et du camembert qu'on mange à la petite cuillère. Mon appartement est vraiment charmant, je me chauffe au diamant, on ne peut rien rêver de plus fumant. J'avais la télé, mais ça m'ennuyait, je l'ai retournée. De l'autre côté c'est passionnant, j'y snob. Paul Poiret non è un tipo che si perde d'animo, anzi crede che nella vita si debba approfittare delle occasioni perdute per costruirsene di nuove, migliori ancora. Dopo aver lasciato per divergenze d'opinione casa Worth, decide che è arrivato il momento di aprire un atelier tutto suo. Io ci ho provato a rimanere, ma i miei disegni venivano sempre bollati da Worth come sfacciati. Una volta ho provato a scavalcarlo e senza dirglielo ho mostrato alla principessa di Russia Bariantinsky il mio kimono. Lei è subito corsa da lui a dirgli che le avevo proposto un orrore, quindi era impossibile che quello fosse il posto giusto per me. 1903, numero 5 di Rue Auber. Tutta la Parigi che conta attende con il fiato sospeso l'inaugurazione del primo atelier personale di quel couturier un po' matto che se n'è andato dalla Maison Worth. E lui, eccentrico e con la tendenza all'esagerazione, ha in mente di sorprendere. Rispetto ai canoni tradizionali della haute couture, si distingue per le sue azzardate scelte commerciali. Non più discrete boutique nelle quali per entrare bisogna suonare il campanello e farsi riconoscere, ma enormi vetrine che danno sulla strada, dove tutti, passando, possono vedere i modelli esposti. Quella che oggi sembra una banalità, all'inizio del secolo scorso, è un piccolo grande cambiamento, perché per la prima volta l'accesso alla bellezza degli abiti è concesso a tutti, non più soltanto a ricchezza e nobiltà. Poco alla volta le signore vengono conquistate dalla sua opulenza e abbandonano la concorrenza più classica per rivolgersi a lui, che si fa in quattro per accontentarle in ogni loro desiderio. Arrivano dunque le clienti e con loro i quattrini. Tanto che presto, soltanto 3 anni dopo l'apertura in via Aubert, Poiret si può spostare in una nuova sede. Sceglie uno spazio molto più grande in Rue Pasquier, al numero 37. È qui che comincia davvero la sua rivoluzione. Sentivo di avere Parigi ai miei piedi. Avevo l'atelier che desideravo fin da bambino, l'atelier dei miei sogni, e con la credibilità che avevo raggiunto potevo davvero permettermi di fare quello che volevo. Replicando l'idea del kimono in molteplici declinazioni, Poiret lancia quell'orientalismo che nel corso dei decenni avrebbe avuto molta fortuna. La guerra al corsetto è portata avanti con il vigore di un grande condottiero per liberare la donna e dare alla sua silhouette una forma a S, molto più sinuosa e sciolta. La tavolozza dei colori viene completamente stravolta e per gli abiti i toni diventano accesissimi. Ma soprattutto Paul Poiret è il primo grande stilista che fiuta il potere del marketing. Nel lussuosissimo palazzo circondato da un grande parco in Avenue d'Antenne, dove si trovano sia la sartoria che la sua abitazione, le Magnifique, come iniziano a chiamarlo tutti, organizza défilé, ricevimenti, feste, nelle quali la più celebre è senza dubbio la 1200e Nuit del 1911, apoteosi dell'orientalismo che scatena pettegolezzi in tutto il mondo. Ormai Poiret può permettersi qualsiasi cosa, vista la sua popolarità. E non è uno che ha paura di rischiare. Dimostra così di essere all'avanguardia, pubblicando a scopo pubblicitario i primi album di bozzetti curati dai più bravi illustratori del periodo. Le raccolte Les Robes de Paul Poiret racconté par Paul Irib del 1908 e Les Choses de Paul Poiret vouées par Georges Le Pape del 1911 sono sorprendentemente dei successi editoriali. Le signore che venivano in sartoria a prendere le misure si fermavano a lungo a guardare i bozzetti, che trovavano bellissimi. Ho semplicemente pensato che in fondo erano anche loro una forma d'arte e come tale andavano messi a disposizione di tutti. Era uno sbaglio tenerli nei cassetti. Poiret non si accontenta. Vuole spingere sempre oltre il confine della provocazione. Mette in piedi, cosa assolutamente contemporanea, delle tournée europee con sfilate di bellissime modelle, in modo da far conoscere ovunque le sue collezioni. Subisce in questi anni l'influenza delle scenografie e della ricchezza decorativa dei Ballet Russe, che il coreografo Diaghilev ha portato con un incredibile seguito a Parigi. Turbanti, pantaloni alla turca e tuniche velate in stile harem diventano una delle sue cifre stilistiche, mentre la jupe culotte, il primo tentativo di pantalone femminile da casa e per uscire, fanno gridare allo scandalo i ben pensanti. Ma è troppo tardi per tornare indietro. La rivoluzione Poiret sta invadendo tutto il mondo. Je suis faite pour plaire et n'y peux rien changer. Mes lèvres sont trop rouges, mes dents trop bien rangées. Mon teint beaucoup trop clair, mes cheveux trop foncés. Et puis après, qu'est-ce que ça peut vous faire? Je suis comme je suis, je plais à qui je plais. Destini incrociati. A destini incrociati siamo all'inizio del Novecento e lo stilista Paul Poiret, con le sue idee, sta inventando la moda in senso moderno. Riferimenti all'Oriente, pantaloni anche per le donne, liberazione dal corsetto e quindi una femminilità nuova, il tutto unito a un grande talento da imprenditore, fanno sì che le Magnifique, così lo chiamano tutti, stia cominciando a diventare un punto di riferimento per gli appassionati di tutto il mondo. Dopo un viaggio a Vienna presso la Wiener Werkstatt, Poiret fonda a Parigi l'Atelier Martin, dedicato all'interior design, dove lui stesso, chiamando a collaborare artisti celebri come Raoul Dufy, progetta tessuti per l'arredamento, tappezzerie, accessori per la casa e mobili dal sorprendente impatto decorativo. Siamo soltanto nel 1911, quando, precorrendo i tempi su chiunque altro, si lancia nel mondo dei profumi e della cosmetica con la linea Rosine. Cura personalmente ogni dettaglio, dalle confezioni con lavorazioni in argento e cristallo alle essenze ricche, raffinatissime. Ho sempre pensato che una linea di profumi e cosmetici completasse una collezione, perché è la stessa donna che soltanto con i vestiti senza profumi e cosmetici non è completa. L'idea oggi può sembrare banale, ma bisogna collocarla all'inizio del secolo scorso per capire quanto, insieme alle altre intuizioni di Poiret, fosse davvero rivoluzionaria. L'America lo accoglie a braccia aperte quando nel 1913 scende per la prima volta dal transatlantico arrivato dall'Europa. Poiret, grande uomo di marketing, sigla accordi e licenze per commercializzare su larga scala con la sua etichetta qualsiasi cosa: abiti, borse, guanti, calze. È in questi anni che incominciano a chiamarlo The King of Fashion. Di lui sente parlare per la prima volta anche una giovane ragazza italiana che vive in America da quando si è sposata e che presto legherà a lui il suo destino. Il suo nome è Elsa Schiaparelli. Elsa Schiaparelli. È una giornata ancora calda quando il 10 settembre del 1890 Elsa Schiaparelli viene alla luce a Roma. La sua famiglia in realtà non è originaria della capitale, ma del Piemonte. Si sono trasferiti lì perché papà ha ottenuto l'incarico di direttore della biblioteca dell'Accademia dei Lincei dal re Vittorio Emanuele II. Traduttore orientalista e docente lui, aristocratica napoletana la mamma, con avi legati ai Medici, e uno zio che è tra i fondatori del Museo Egizio di Torino. È facile immaginare come Elsa respirasse cultura già dai primi anni di vita. In casa mia c'era sempre gente che andava e veniva. Si fermavano tutti a chiacchierare in salotto con papà e con lo zio. Quando ero molto piccola mi sembrava che parlassero sempre di cose difficilissime, di politica, di arte. Poi piano piano, crescendo, cominciavo a capirle anch'io. Ed era bellissimo per me starli ad ascoltare. L'infanzia e l'adolescenza di Elsa trascorrono serene e senza troppi pensieri, tra le feste più lussuose degli antichi palazzi romani e le frequentazioni altolocate della sua famiglia. La provenienza aristocratica, però, è un'arma a doppio taglio, perché le proibisce di realizzare il suo sogno, quello di fare l'attrice. non è ancora una professione di prestigio e per una donna è considerato piuttosto sconveniente. Ecco perché in casa fanno di tutto per scoraggiarla. Ribelle e dall'animo inquieto, Elsa canalizza allora la sua energia creativa nella poesia. Trova un complice in un suo zio paterno che le pubblica una raccolta sotto il titolo di Aretusa. Il pubblico reagisce discretamente bene e il volume viene venduto sia in Italia che oltre i confini nazionali. Ma anche in questo caso la famiglia le mette i bastoni tra le ruote. Papà la fa rinchiudere in un convento in Svizzera. Je fonde l'espoir que la robe que j'ai voulu et que j'ai cousu point par point sera chiffonnée, les cheveux que j'ai coiffés ont décoiffé par tes mains. Quand la nuit referme ses ailes, j'ai souvent rêvé, rêvé que dans la soie et la dentelle, un soir où je serai la plus belle pour aller danser. Dopo i mesi passati in convento in Svizzera, come sorta di punizione per avere pubblicato il suo libro di poesie, Elsa Schiaparelli è anziché più calma, molto più arrabbiata di prima. Ha poco più di 20 anni, quando senza pensarci troppo, si trasferisce a Londra, dove si trova benissimo. Comincia senza il peso della famiglia alle spalle, a sentirsi solo e semplicemente Elsa. La capitale inglese è viva, pulsante, aperta. Schiap, come presto tutti la chiamano all'estero per abbreviare il suo cognome italiano così difficile da pronunciare, una sera conosce il conte William de Went de Kerlore e se ne innamora. Adesso che finalmente può lasciarsi andare al suo istinto, quando lui le chiede di sposarlo dice di sì, senza bisogno di pensarci. Non le importa quello che pensano i suoi genitori, vuole essere una donna libera. Dopo il matrimonio, Elsa e suo marito si trasferiscono a New York, che intorno agli anni 10 è la magnifica città delle avanguardie. Ero così eccitata quando sono arrivata a New York. Leggevo cosa succedeva lì sui giornali europei e mi sembrava al centro del mondo. Ero fortunata perché mio marito aveva molti amici e anch'io ho conosciuto fin dall'inizio persone interessanti. Man Ray, Alfred Stieglitz, Marcel Duchamp. Sono soltanto 3 dei famosi artisti che affollano la casa di Schiappa e del Conte a New York. Lei è una grande ospite, abituata ad accogliere personaggi importanti fin dalla sua infanzia, e nemmeno la sua amatissima figlia la distrae dai suoi appuntamenti mondani. Nel frattempo le cose con William si mettono male. Crisi depressive, discussioni per ogni minima questione quotidiana, totale disinteresse di lui nei confronti di lei. Schiap sopporta per qualche mese, finché un giorno si guarda allo specchio e decide di riappropriarsi della sua vita. La parentesi americana è stata una grande esperienza, ma è arrivato il momento di tornare in Europa. Mette poche cose in una borsa, prepara la piccola Gogo e dopo aver lasciato un biglietto a fianco di quello che un tempo era un grande amore, se ne va. Sola, con una bambina ammalata di poliomielite, senza un posto dove stare, Elsa Schiaparelli arriva a Parigi e si rivolge alla sua amica Gabi, moglie dell'artista Francis Picabiat. È lei che la aiuta a reinserirsi nella vita europea, che le trova una casa e l'aiuta a incontrare nuovi amici. Per esempio Marie, con la quale un giorno Elsa va a fare una passeggiata tra le vie dove hanno sede i più famosi atelier di moda. Davanti alle vetrine di Paul Poiret, Schiap resta a bocca aperta. Ha sentito tanto parlare a New York di quello stilista rivoluzionario, ma non si sarebbe mai aspettata nulla del genere. Poiret aveva delle vetrine incredibili, grandi, imponenti, con scenografie che sembravano prese dal teatro. Tutti potevano vedere cosa succedeva dentro la boutique, con lui che si aggirava con dei fogli di carta tra le modelle in carne e ossa e prendeva appunti. Era qualcosa che non avevo mai visto. Marie, distratta per un attimo dalla voce di un bambino dall'altra parte della strada, si volta e non trova più la sua amica Elsa. Allunga il collo per vedere più lontano e la scorge dentro il negozio di Poiret, impaziente di parlargli. Entra anche lei, convinta che Elsa voglia fare acquisti, ma non è così. L'esuberanza creativa e lo sfarzo di Poiret non sono alla sua portata. La prima volta che ho incontrato Schiap, ho pensato che fosse un'italiana bruttina e senza molto stile. Mi ha chiesto di farle vedere alcuni modelli e quando le ho detto il prezzo è saltata per aria, per quanto erano cari. Le ho risposto che poteva pagare come e quando voleva. Ci siamo fatti una risata. E da lì è cominciato tutto. Totalmente rapita dal lavoro e dalla personalità di Poiret, Elsa Schiaparelli comincia a frequentare l'atelier tutti i giorni. Lui, che intravede già in lei i semi di quello che diventerà, la aspetta, le prepara un tè, le insegna a disegnare i primi bozzetti che via via si fanno modelli sempre più difficili. Elsa, che ha vissuto in prima persona le costrizioni di un'educazione rigida, vede nella lotta al corsetto del suo maestro la vera liberazione della donna ed è impaziente di seguirne le orme. Adesso che ha capito che la sua strada è quella della moda, ha finalmente trovato il senso della sua esistenza. Je veux jouer, joue contre vous, mais vous le voulez-vous? De tout cœur, je veux gagner ce cœur à cœur. Vous connaissez mon jeu par cœur, alors défendez-vous. Sans tricher, je vous le promets. J'ai gagné, tant pis c'est bien fait, vous êtes mon jouet. Destini incrociati. Siamo a Parigi, intorno agli anni 20, e una giovane e inesperta Elsa Schiaparelli ha appena messo piede nell'atelier di quello che gli americani chiamano The King of Fashion, Paul Poiret. Il couturier è come il direttore che dirige un'orchestra. Così come il musicista dà l'avvio ai violini, sostiene i fiati, assembla il timbro di ogni strumento per formare un unico, perfetto suono orchestrale, il couturier non può limitarsi a creare un abito, ma deve imporre alla propria cliente le scarpe, il cappellino da indossare in tono con la sua creazione e soprattutto suggerire il profumo, che amalgami e avvolga ogni singolo elemento per formare, con colei che l'indossa, l'opera d'arte. La prima creazione di Elsa si ispira a un abito fatto a maglia da una rifugiata armena. La stilista va a parlare con la donna e tra le due comincia una collaborazione in cui una ha le idee, l'altra le realizza. Come le ha insegnato il suo maestro, bisogna scatenare l'immaginazione, dagli abiti sportivi di ispirazione africana e cubista ai tessuti con ritagli di giornale, dai riferimenti al surrealismo agli animali e ai soli giganteschi. E poi ancora golf decorati con il trompe-l'œil, maglie color carne con tatuaggi da marinaio a simulare l'illusione di nudo, capi con uno scheletro a ricordare una lastra. La Maison Schiaparelli, dal 1934 in Place Vendôme, lancia stagione dopo stagione collezioni a tema, tutte disegnate personalmente dalla couturier nei suoi piccoli album di schizzi dettagliati. Il successo di pubblico è travolgente, tanto che Schiap, presto, viene considerata l'unica vera antagonista di Coco Chanel. Le due donne non potrebbero essere più diverse, sia per lo stile, rigoroso e semplice quello di Chanel, ricco e fantasioso quello di Schiaparelli, sia per le origini, povera la prima, aristocratica la seconda. Ciò che le accomuna, però, è il desiderio di esprimersi liberamente e di promuovere una donna indipendente e fiera. Schiap, imparando da Poiret, valorizza l'uso della sfilata e promuove i suoi abiti indossandoli lei stessa. Pigiami da spiaggia, abiti da sera con le spalle accentuate, gonne e pantaloni per le quali il suo maestro, di solito restio a farne, si prodiga in grandi complimenti. Via via che il nome di Elsa Schiaparelli si sparge tra le donne eleganti di tutta Europa, le palette di colori si arricchiscono e aumenta il giro d'affari. Dopo aver aperto un atelier anche a Londra, la stilista conquista le dive del cinema con il suo stile innovativo. È perfino da lì che con lei si diverte a realizzare il celebre tailleur nero con tasche ricamate a forma di cassetti e Jacques Cocteau, che disegna delicati profili da ricamare sugli abiti. Portando avanti il sogno di Poiret e compiendo l'emancipazione che desidera fin da bambina, la Schiaparelli crea 12 comandamenti per le donne contemporanee. Conoscere se stesse. Comprare un vestito costoso e modificarlo, spesso con esiti disastrosi, è da scialacquatrici e da folli. Chiedere sempre consiglio sui colori. Ricordare che il 20% delle donne ha un complesso di inferiorità e il 70% coltiva illusioni. Non comprare solo abiti grigi per non essere appariscenti. Osare. Ascoltare le critiche. Scegliere vestiti sole o con un uomo. Non scegliere mai vestiti con altre donne che sono consciamente o no gelose. Comprare poche cose e di qualità. Non adattare mai il vestito al corpo, ma abituare il corpo al vestito. Fare acquisti sempre nei soliti posti. Non precipitarsi a seguire la nuova moda. E soprattutto, una donna moderna deve pagare da sola ciò che compra. Donne-moi un sito Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donne-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa-pa-da, pa-pa-pa-da. offrez-moi du personnel. J'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel? Ce n'est pas pour moi, offrez-moi la tour Eiffel. J'en ferai quoi, pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Elsa Schiaparelli è stravagante, sconvolgente, un punto di riferimento per gli artisti. Insieme agli abiti crea i gioielli, i bottoni, le fragranze, proprio come anni prima aveva fatto il suo maestro Paul Poiret. Nel 1938 la confezione dell'eau de toilette Shocking, ispirata alla silhouette di Mae West, è fedele al suo nome e sciocca i ben pensanti. Nasce un colore nuovo destinato ad avere grande fortuna che proprio alla tinta della boccetta si ispira ed è il rosa Shocking. Ma mentre Elsa ha tutto questo successo, che ne è stato di Paul Poiret? Ormai è riconosciuto anche in America, dove ha messo in piedi una grande succursale di Parigi. Come King of Fashion, Paul Poiret, allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, viene chiamato alle armi. Riprende la sua attività quando il conflitto finisce e si inventa un prêt-à-porter ante litteram che davvero precorre i tempi. Ma la guerra ha cambiato tutto. Per via di alcune speculazioni sbagliate, si espone troppo finanziariamente. I fasti di inizio secolo sono finiti. I lussuosi locali che inaugura Cannes, Deauville e Biarritz con l'intento di organizzarvi sfarzose feste in costume non trovano seguito tra il pubblico. Sempre di più, Poiret si dedica al teatro e al cinema, gli unici ambiti nei quali si può ancora sperimentare. Il suo atelier si sposta in una sede più modesta, ma lui tenta ancora un grande colpo di scena in occasione dell'Expo del 1925, quando acquista 3 battelli ancorati sulla Senna e li trasforma in piattaforme galleggianti del lusso. Amore è un salone dedicato ai profumi. Delizia, un ristorante arredato con le sue stoffe e i suoi accessori. Orgia, una onirica galleria da adibire alle sfilate. L'operazione lo porta al fallimento. Per coprire i debiti mette all'asta la sua collezione di opere d'arte, ma non basta. La casa di moda viene venduta e lui deve cedere anche il nome. Completamente in rovina, ha solo un'amica che gli sta vicino e lo aiuta. Elsa Schiaparelli, quasi una figlia che poco prima che muoia, nel 1944, organizza con il comune amico Jean Cocteau una mostra retrospettiva dei suoi dipinti. Devo a Paul Poiret tutto quello che sono diventata. Mi ha insegnato a disegnare, mi ha insegnato a non aver paura delle mie idee e mi ha insegnato a fregarmene di quello che dicevano gli altri. Lui era il vero re della moda. Tutti quelli che sono venuti dopo gli sono debitori. Elsa Schiaparelli, una donna indipendente, creativa, ribelle, emancipata, che ha scelto il suo destino. Il suo atelier chiude nel 1947, quando l'altra guerra mondiale appena finita ha cambiato tutto, proprio come era successo al suo maestro. Ha chiuso anche Chanel ed è il momento del new look di Dior. Ma quando Schiappa si spegne nel 1973, nessuno si è dimenticato di lei. Yves Saint Laurent le dedica un appassionato abito dal nome Gli occhi di Elsa, in memoria di una figura appassionata senza la quale oggi la moda non sarebbe quella che conosciamo. En fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie, et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi, et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule, et la foule vient me jeter entre ses bras.